Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Bene, è una bella metafora che voglio regalare oggi in questo mondo che impazzisce. Come voleva si dimostrare ancora una volta il vostro fondo schiena è attraversato da oltraforo del Fregius. Esagerato, buongiorno, buongiorno. Quanto hai sofferto pensando che Alfano non si candiderà più? E si è presentato una bella mattina chiedendo lavoro. Io dicevo, ma questi qua sono matti. Alfano è stato il peggior ministro dell'interno dell'Italia. A lei, però, soft. E Pisapia, qual è la spiegazione che dai tu? Io sono, potrei aprire un capitolo a questo punto infinito, ma non lo faccio per esigenze di sintesi. No, nessuno ha ben capito poi nel giro mondiale. Che cavolo, io non ho ancora capito che cosa fosse il campo progressista. E la politica diventa sempre più commedia. Alla fine, come dici tu, gli attori sembrano i commentatori seri. Trattati male in modo arrogante da un'amministrazione pubblica ignorante. Non crediamo che non siano lavori stressanti anche quelli, per carità. E a lavorare. Dottor Giannino, lei non sa, anzi lo sa benissimo, perdoni, che Oscar non mi ha corretto. Il male è una domanda alla nostra libertà. Chi non sa rispondere, lui sceglie di essere male. Reach out and touch faith. Popolo dei Giasvegli, buongiorno. Malgrado il giorno di festa, malgrado qualcuno di voi oggi possa riposare soavemente fra le lenzuola, noi siamo qui a lavorare per voi, per il nostro milione di amici. Ieri tornavo di notte tardi da Vasto e sentivo una bella canzone delle Zeppelin e pensavo, domani la porto in radio, perché è un grande viaggio quello che facciamo. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, i vostri chilometri, da dove partite, quanto tempo state in macchina. Cerchiamo di vedere il punto medio dei viaggi che questa trasmissione racconta. E allora oggi qui con noi il comandante, professore emerito Alberto Castelvecchi. Buongiorno editore, Luca, buongiorno a tutti. Docente, che altro? Ma sai che su questa cosa di chi passa il tempo in macchina faccio spesso degli special nei miei corsi alla LUIS? Sì. Perché se tu pensi che una persona passa un'ora per andare al lavoro, un'ora per tornare dal lavoro tutti i giorni, e c'è tanta gente tra quelli che ci ascoltano che dedica 2 ore al giorno alla macchina, sai quanto fa in un anno? 480 ore, 20 giorni. E se questi 20 giorni li suddividi in giornate lavorative, sono 60 giornate lavorative. Cioè chi oggi fa il pendolare andando un'ora andata e un'ora ritorno, trascorre vive due mesi di meno, due mesi in macchina, quindi speriamo lontano una parte dalla sua famiglia. Quindi però insieme, Luca, a noi hai una grande responsabilità, li devi rendere più lieti. Appunto, abbiamo, tu vedi che devi, ecco, rallegrare questi abbiamo due mesi. Visto da un'inchiesta, e questo era il punto di partenza ieri, che in Germania 1.200.000 persone fanno più di 120 chilometri. Sì, beh, loro non per niente sono un popolo diesel, come però il Dieselgate. E adesso passano l'elettrico per poter fare, allora, questo, la macchina che si guida. Guardate da sé. I capitoli che si riempiono. La telenovela del centrosinistra, meravigliosa. Oggi c'è un'intervista ai Renzi che dice Pisapia non c'è, meno male, mi ha fatto perdere 6 punti. Quindi, ale! Poi c'è Gerusalemme e tutto quello che sta accadendo. Qui ci devi dare il tuo punto di vista, sì, perché è importante. Poi c'è il ritorno della Raggi, che ieri ha parlato a Piazza Pulita dopo un lungo silenzio. Ma dove era andata? No, non parlava. Ah, non ce ne eravamo con. In effetti sì, come dice, ha battuto un colpo. Parliamo finalmente di presenza mediatica. Una seduta mediatica spiritica. Va bene, ho capito. Sei spiritoso, caustico. E allora cominciamo da Prodi, che ha parlato ieri. Ha detto, non è una defazione quella di Pisapia, non è scappato. Ma sentiteli le Zeppelin, che cosa pazzesca. Vabbè, questi... Pisapia non aveva deciso, aveva studiato il campo. E questo, beh, sapete, però di volte è conciso. Finito? Ok, era molto sintetico. La Meloni, durissima su Alfano, non lo rimpiange, diciamo, non lo rimpiange. Alfano in questi anni è stato un nemico dell'Italia, una persona che si è occupata prioritariamente di far entrare in Italia 500.000 immigrati clandestini e che nulla ha fatto invece per i bisogni degli italiani. Eh beh, anche qua proprio la tocca morbida. E sì. Orlando, dispiaciuto sia per Pisapia che per Alfano, almeno qualcuno che si è dispiaciuto c'è. Pisapia ha provato a guidare un processo che in qualche modo purtroppo non si è concretizzato. Va ringraziato ora, comunque per lo sforzo e la generosità. Senza Alfano, qui si rischia non la frittata. Guardi, io considero che la scelta di Alfano vada rispettata e devo dire che esprimo anche un rammarico, perché penso che Alfano abbia svolto un ruolo importante, lo diranno forse più gli storici che non la cronaca, nella transizione italiana, nella, diciamo, deberlusconizzazione del paese, se questo processo andrà avanti. La deberlusconizzazione, sì, che poi ritorna sempre lui. Quindi la domanda, fra l'estremo della Meloni che dice che era un nemico dell'Italia e Orlando che lo vuole collocare sul piedistallo della storia, tu dove lo collochi Alfano? Lo colloco come tanti, un tempo c'era, ti ricordi, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, i tanti partitini che fungevano da zeppa ai vari pentapartiti eccetera eccetera, cioè un uomo da 3% a 4% che probabilmente si è reso conto che alle prossime elezioni non avrà un blocco elettorale sufficiente a sostenerlo, e come fanno in tanti oggi vede fuori dal Parlamento le reali leve della politica, perché attenzione che Alfano ha detto io lascio il Parlamento, non la ma politica. Non la politica, ma certo. Stai sicuro che riciccia? Ma probabilmente sta subendo telefonate da quelli di Forza Italia che lo rivolgono con sé. No, questo in questo no. Momento io la penso, no, lo posso, io guarda escludere. La penso contrariamente a come la pensa Orlando. In questo momento il paese si sta riberlusconizzando. Bella, ho bella davanti a me, però, caro Luca, il libro di Michela Vittoria Brambilla, Dalla parte degli animali. Ecco. Anche gli animali ormai tifano Berlusca, capisci? Dudù è lì in prima fila. E Alfano, come Dudù, è tra i tanti animali di ritorno della politica che non ce ne libereremo mai, stai tranquillo. Questo lo dice già Francesco Guicciardini. State bene attenti, tutti quelli che dicono lascio la politica, lascio il Parlamento. Di Battista, voglio vivere una vita più mi riprendo un pezzo della mia vita. Anche Alfano ha detto esattamente la stessa cosa. Ci sono quelli, diciamolo in Nanni Morettese, in questo giro li si nota di più se non vanno. Se non vanno, esattamente. Si riprendono un pezzo della vita, ma che se la riprendessero pure tutta. Ma tanto Laura Castelli, dalla Gruber, ieri sul referendum sull'euro, un'altra frittatina. Guardi che cosa è successo. Ma lei ha un referendum sull'euro, dentro o fuori, cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota, nel senso si dice. Lei è un rappresentante di un movimento importante come i 5 Stelle, deve dire sì, se io voglio votare per il referendum sull'euro. Un conto è dire che cosa vuoi fare con l'euro, chiediamo ai cittadini. Un conto è dire ce l'avreste un modo per... Ci sono molte modalità. Non mi hanno mai risposto alla domanda. Cioè non si può banalizzare un tema così. Lei ha un referendum euro sì o euro no, cosa voterebbe? Non lo so. Non lo so. No, ragazzi, o sì o no, basta, se vi ci mettete pure voi è finita. Ma ormai loro sono movimento di lotta e di governo, no? È vero, Di Maio, bravo. Di Battista, e di euro e di non euro, cioè, sono più moderati. Minniti riaccende la speranza sullo Ius Soli. Ma questa è una telenovela, una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no. Se n'è andato Pisapia per lo Ius Soli, non è che si può cambiare idea adesso, sentiamo. Lo intervistato da non Milano. Arriverà alla fine all'approvazione. Ma chi l'ha detto che non arriverà all'approvazione? Calendario. Il calendario non dice questo. Noi pensiamo che ci siano i tempi perché tutto il calendario venga approvato. Qualora ci rendessimo conto che non dovesse esserci questo tempo, io, dice il capogruppo al Senato, non posso dirlo io che sono il ministro dell'Interno, chiederò una riunione dei capigruppo per cambiare l'ordine del calendario. Allora, è un po' come le partite che si giocano fino al 94esimo e poi c'è il recupero del recupero. Minniti sta prendendo in campo questo scenario. Momento. Sì, il VAR, apriamo. Zanda chiama il VAR, dice facciamolo Ius Soli. Sì. No, ma è una cosa, scusate, con tutto il rispetto, è una cosa ridicola. Io da linguista sono più o lo fate o non lo fate. Affascinato dal fatto che la Meloni fa fatica a parlare in italiano, cioè presente che no, era questa pancia. Vabbè, non puoi dire cioè, questa cosa. From Garbatella proprio Roma, eccetera. Invece ma intanto, Ti senti che addirittura un eccesso di qualora si rendesse conto che non dovesse esserci, sembra la famosa supercazzola, capito? No? Guarda, ci si rendesse conto che non dovesse esserci spazio in calendario. Oh, ma quello è giorno festivo, ma ci sentono lo stesso. È un grande Minniti. Io sono un ammiratore di Minniti, anche perché, come sai, lo stai sfottendo. Guardatemi solo Beckham, ho una somiglianza fisica imbarazzante. No, io di Minniti ho veramente una grande stima. Senti che Alfio Bardolla, l'uomo che spiega agli italiani come ci si può arricchire. L'uomo arancione, senti. Voi state dando il meglio di voi stessi? Siete persone che si stanno impegnando e che non mollano un metro? State alzandovi e ottenere il risultato che volete? Siete disposti a far quella fatica, a far quella pressione e avere quel risultato dal punto di vista finanziario oppure no? Siete disponibili ad essere unfuckable e a crescere e a credere in voi stessi e fare in modo che qualunque cosa vi mettete nella testa poi la riuscite a realizzare? Siete pronti a fare questa cosa, sì o no? Siamo qua tutti a posto. I soldi nella vita di oggi sono importantissimi e danno la felicità. E i soldi danno la felicità, va bene, ma è un altro tu che esempio conosci di riberlusconizzazione del paese. Che questo, vuol dire è un esempio siete di cultura pronti ad essere... Cosa vuol dire siete pronti a essere unfuckable? E cioè non vi fotte nessuno. No, cioè, vuol non dire, dire. Traducilo in modo alato. Cioè mi consente vuol dire che voi in poche parole no, nessuna contrarietà della vita vi può neanche, come dicono i napoletani, quella cosa che trasi a spighetto e se mette di piatto. Cioè come dire, non potete neanche se la, diciamo, lo, ecco, se qualcuno vi dice stai sereno, voi comunque rimarrete sereni, non cadrete come il governo Letta. È un programma elettorale berlusconianissimo questo, del sistema di valori lavoro, guadagno, pago, pretendo. E siamo in piena ribrianzola. Hai sentito l'accento un po' brianzolo, no? Siete pronti a questo? Si è quotato in borsa, ha avuto un grande successo Bardolla. Ma senti, perché è una cultura Raggi berlusconiana di ritorno, da Dudu a Bardolla. C'è un fronte che sta tornando verso la non criminalizzazione del denaro. Viva i soldi, viva il successo, viva Dudu. È proprio... Allora, vi dicevo che la Raggi è andata a Piazza Pulita e va bene. Poi lei è molto abbottonata di soldi. Questa volta ha anche ammesso il litigio sempre negato con la sua rivale che ora è candidata alla presidenza del Lazio, la Lombardi. Però Beppe lo sente comunque, immagino. Sì, no? Ci sentiamo, Casaleggio, ogni tanto Beppe, ci sentiamo. Di Maio, Beppe ogni tanto, sì. La Lombardi. Sì, beh, tra l'altro sta iniziando, direi, un'avventura importante, quindi... Avete ricucito un po'. Sì, assolutamente. Ah. Anche perché abbiamo una missione da portare a termine, quindi voglio dire. C'è stata una rottura, se... Che dici? Ma trovo abbastanza agghiacciante. Cioè, noi la Raggi non l'abbiamo sentita nel frattempo, però la cosa che trovo agghiacciante è che lei dice in questo momento Beppe lo sento ogni tanto. Ma amica mia, giusto, se tu sei rimasta al governo di Roma è perché Beppe non ti ha staccato la spina. Cioè Beppe, Dibba e Di Maio non ti hanno staccato la spina. Ed è curioso che lei li sente ogni tanto. Allora è quello che mi metto io, ma chi sente lei? Cioè con la Taverna, con Ruocco, litiga, con la Lombardi, idem. Beppe lo sente ogni tanto. Sarà forse un satellite isolato. Un modo isolato per dire, lo sentirà tutti i giorni. Ogni 5 minuti ci auguriamo per lei, perché altrimenti qualcuno le stacca, qualcuno le dirà stai serena Virginia, a un certo punto la spina verrà staccata. Senti, Fede, commosso, ricorda il Natale a casa dell'Utri. Io non voglio entrare nel merito, ma Marcello, io ricordo Marcello dell'Utri, nei giorni questi del Natale io con la mia famiglia andavo spesso il Natale a casa loro e lui, il piccolo presepe e tutta la famiglia nella preghiera, noi compresi che eravamo ospiti, a celebrare questa la notte della Natività. Dobbiamo salvarlo, assolutamente. E beh, la commozione va sempre rispettata. Fazio e Giovanotti fanno un bel siparietto sulle canne e chiudiamo in bellezza. Ale. Ma tu ti sei mai fatto una canna di marijuana? Hai presente quelle... Sai perché te lo domando? Sì. Tutto secondo qua me Fazio siamo stati censurati praticamente stamattina. La famosa, avrebbe potuto dare la famosa risposta di Bill Clinton: sì, ma non l'ho aspirata. Ti ricordi? Sì, yes, è vero, cioè, fece Fazio scuola. Fazio ha proprio quella faccia lì: sì, ho provato a dare un tiro ma non l'ho aspirata. Fazio c'ha proprio quella faccia democristiana perfetta. Infatti quel silenzio è stato, secondo me, però è Giovanotti, diciamo, no. Beh, non ha l'aria di quello che non ha mai aspirato. Diciamo Giovanotti probabilmente invece è più free joint, non lo so, però andrebbe chiesto a lui, ora non posso io. Certo, sì, qualche cosa la Bob Marley immagino che l'abbia tirato su. Allora, malgrado il giorno di festa, se siete connessi scrivetecelo, Strada in diretta. E torniamo con i Già Svegli. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. I Già Svegli. Ciao Luca, hai un fisico asciutto. Luca Terese, l'armadillo dell'informazione. Sono già sveglia perché adesso a Seul è pomeriggio e a Seul c'è mia figlia Ilaria che è andata là per studiare. La mattina presto è praticamente l'unico momento tra i miei impegni di lavoro e i suoi di studio in cui riusciamo a sentirci. È difficile lasciare andare i figli. Sono Luca di Foligno e ogni mattina io ti chiamerò e ti dirò: diamo posto ai giovani, mandiamo in pensione i vecchi. Sono già sveglio tutte le mattine alle 5:30, che lavoro fuori Milano, lontano, faccio tanti chilometri, ma diciamo che alle 5:30 mi alzo, perché io sono già sveglio molto prima, perché lo stress e i pensieri non ti aiutano di certo a dormire. Poi arrivo in macchina, alle 6:30 cominci. Dubitavo molto quando è cambiato il conduttore. All'inizio, sono sincero, ti ho sentito un po' dormiente, adesso devo dire che sei veramente già sveglio anche tu. Ah, questa è meravigliosa, è un grande romanzo, questo dell'Italia che lavora e lavora anche oggi. Avevo chiesto i messaggi al 349-238-6666, stanno arrivando. Aspetta, il saluto. La pasticceria Ivan e il suo staff lavora! Ivan da San Giovanni Larione a Verona, vai, si sente l'odore dei cornetti da qua, che state preparando? Grazie del buon lavoro, vai. Ma il signore che parlava prima era Salvini, cioè era l'imitatore, era uguale. No, ho immaginato. Salvini chiama alle 6:30, tu dici che dorme Salvini alle 6:30. No, perché secondo me è molto attivo. Perché non fai una cosa alla Cruciani, tipo la zanzara, sai? Cioè, dice provate a chiamare Salvini a quest'ora, se no ti beccheresti dei vaffa bestiali. Nel senso, ero uguale a Salvini, se ci pensi, il timbro era quello. Io ho pensato Salvini in campagna elettorale che alle 5:30 si alza per correre l'Italia. Ma no, secondo te quello che mi ha definito, quell'ascoltatore che mi ha definito smilzo, c'era un po' di satira? Secondo me è assolutamente stupido ironizzare su, diciamo, la tua spaziosità, perché sei uno dei più grandi conduttori radiofonici d'Italia. Vabbè, ma perché continuate con questo tentativo di ridicolizzare Berlusconi nominando Dudu? Ma non è questo fatto è per te? Io no, assolutamente no. Io dico semplicemente che Silvio Berlusconi è un genio, politico, perché ha lanciato un'offensiva, mentre tutti gli altri hanno una comunicazione piena di astio, di rancore, ha lanciato l'offensiva della tenerezza, della costruzione, eccetera, eccetera. E in questo ci sta. Quindi anche, dal punto di vista tecnico, Dudu è un elemento di marketing. Beh, lo è anche un e elemento funziona, di... secondo te? Sì, assolutamente sì, perché c'è una grandissima quantità di persone, me compreso, che amano gli animali, che hanno cani, eccetera, eccetera. Ma tu ami comunque... gli animali? Io da piccolo volevo fare il veterinario, pensa un po'. Poi ho fatto il linguista, ma no, assolutamente non voglio ridicolizzare, dico semplicemente che c'è una geniale operazione di marketing politico nel quale sta dentro anche l'animalismo o ritrovato, costruito di una parte dell'Italia. Questo assolutamente sì. Allora, la Camusso contro il modello Amazon e boccia a favore del modello Amazon. Per la coincidenza con il Black Friday, lo sciopero dei lavoratori è diventato una importante notizia e molti hanno discusso e hanno potuto vedere che cosa vuol dire lavorare nel grande magazzino di Amazon, che non è, come dire, il mondo lussuoso per cui sei davanti a uno schermo, schiacci un tasto e tutto succede, ma c'è tanto lavoro materiale, quindi che quando si propaganda il diminuire i costi, diminuire i prezzi, vuol dire che ci sono dei lavoratori che si vedono peggiorate le condizioni. Io purtroppo sto con la camicia, cioè purtroppo per aspetta, fortuna, sentiamo. C'è ragione, c'è niente da dire. Più che pericoloso, io direi che l'opportunità è che i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani. Quindi il modello Amazon paradossalmente può diventare un elemento infrastrutturale di distribuzione dei prodotti italiani nel mondo. Cioè sono due aspetti diversi e sono due facce di un problema. Cioè Boccia ti dice attenzione che per quella strada noi parliamo al mondo. No, e la Camusso ti dice quel modello di lavoro è un modello che ha un'insidia antica. Beh, noi abbiamo gli smartphone in tasca e compriamo su Amazon, ma ci dimentichiamo che spesso gli smartphone sono fabbricati in fabbriche cinesi in cui la gente lavora senza il minimo rispetto dei diritti del lavoro, o che appunto... spesso chi distribuisce questi pacchetti di Amazon magari fa turni di lavoro massacranti come in fabbrica. Ecco, non si sta smaterializzando veramente il mondo, è una nostra illusione. Con questo non vuol dire che Amazon non ci debba essere, secondo me la verità sta nel mezzo, però non vuol dire neanche che chi lavora da Amazon debba stare male. Ma da qualunque parte, da questo punto di vista, Beppe Giulietti pone un problema su cui voglio il tuo parere, perché lui dice ci sono troppi fascisti in TV. come se fossero parte del mobilio. Tra un po' avremo anche la par condicio, ogni volta che dovrà apparire un partigiano dovrà apparire anche un fascista in tutte le trasmissioni televisive. Tutto questo è pericoloso perché ha creato un clima culturale, come se fosse normale minacciare, aggredire, dare testate al singolo cronista, sputare sulla Costituzione, oltraggiarla, e occorre rialzare la testa. È il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, ma io permetto di sentire, cioè non credo che i fascisti abbiano forza e visibilità in Italia perché qualcuno li fa parlare in televisione o alla radio. Ho anch'io questa impressione, insomma, non mi sembra che ci sia, diciamo, fanno parlare di sé quando fanno i presidi sotto Repubblico, quando fanno i proclami o quando fanno le manifestazioni o quando lanciano proclami antisemiti. La capocciata di Roberto Spada a un cronista non c'entra molto, diciamo, è un fenomeno di criminalità coatta di strada che si bordeggia al neofascismo di periferia, ma non fa parlare di sé, ma non mi sembra che i media gli danno spazio, perché certo quando un giornalista viene aggredito gli danno spazio. Non vedo questa congiura profascista in TV, nonostante il rispetto per Giulietti, per carità, no. Senti, Salvini sullo stesso tema all'estremo opposto, meglio parlare dello spesometro. Superato il nazismo e il comunismo, torniamo alla vita vera, che è quella che mi avete messo sopra la testa. Le tasse, gli studi di settore. Renzi aveva detto, in questo studio, se non ricordo male, cancellerò gli studi di settore. Sono stati prorogati per un altro anno. Spesometro, redditometro, il debito della pubblica amministrazione continua a non essere pagato, gli artigiani falliscono. A questa gente del dibattito fra gli anarchici, i nazisti o i comunisti interessa poco. Vabbè, e vedi che siamo all'estremo opposto, uno drammatizzante, l'altro minimizzante. Salvini minimizza troppo, però sugli studi di settore c'ha ragione, anche tu, se no, io mi pare, ieri ti ascoltavo alla radio. Ma no, ma è incredibile, dicevi... la novità annunciata da un anno, sai, il rullo di tamburo, e non ci sono. Ce li abbiamo ancora, andremo avanti per anni con gli studi di settore. Allora, voglio sentirti subito, prima che tu vada e ci affidi alla rassegna stampa, Gerusalemme, che succede? E dunque succede che è in corso una pace, una love story, come è stata definita dall'ambasciatore israeliano in Italia, una love story tra Arabia Saudita e Stati Uniti. L'Arabia Saudita è disposta a sacrificare la causa palestinese su questa ritrovata love story, pur di dare contro all'Iran. I palestinesi hanno fatto un errore storico fondamentale. Hamas è troppo amica degli iraniani. L'Arabia Saudita vuole impedire in tutti i modi che si consolidi questo corridoio sciita che va da Teheran fino a Beirut, fino al Libano, e in questo momento dei palestinesi non ne può fregare di meno a nessuno. La stessa posizione della Turchia è una posizione che è dovuta al fatto che, come tu sai, Erdogan si candida a essere la guida dei sunniti, no, nel mondo. E quindi la mossa di Trump cosa innesca in questa cristalleria di ninnoli tintinnanti? La mossa di Trump conferma quello che è in corso, cioè un legame fortissimo tra l'amministrazione Trump, tra il genero di Trump, Jared Kushner, e Mohammed bin Salman, l'erede al trono saudita. Ne parlava ieri Le Monde. C'è una ricetta Kushner-Mohammed bin Salman per dare ai palestinesi due stati, cioè Stato israeliano, però senza una capitale reale, quindi una specie di... senza Gerusalemme. E in questo momento i sauditi... perché la stanno... sai che la tesi di Molinari è no, riconoscono la capitale, ma consentono i due stati, gli Stati Uniti. Questa sarebbe... ecco, no, esattamente però senza Gerusalemme. Senza Gerusalemme. Di fatto poi se tu vai a Gerusalemme e chiedi a un tassista, diciamo, israeliano di accompagnarti a Gerusalemme Est, ti dice io lì non ci entro proprio. Cioè di fatto esistono già due città spaccate. Proprio il paesaggio è completamente diverso a Gerusalemme, non ti ci accompagnano, è una città già divisa Gerusalemme. Però ricordiamo anche che a Gerusalemme de facto c'è la Knesset, cioè c'è il Parlamento israeliano, c'è il Consiglio Supremo, insomma c'è la Corte Suprema, e ci sono importantissimi ministeri, centri di ricerca. Gerusalemme è già de facto la capitale, ma dirlo in questo momento vuol dire creare, cioè rinforzare la spaccatura tra Iran sciita e Arabia Saudita. E anche gli Emirati si stanno schierando, anche l'Egitto, che basta leggere Daniele Ranieri sul Foglio qualche giorno fa, c'era una cena in un ristorante di Roma tra agenti dei servizi segreti israeliani e agenti dei servizi segreti egiziani per decidere come combattere l'ISIS. La priorità è questa. I palestinesi hanno sbagliato in una cosa, probabilmente. Si sta svolgendo tra Fatah e Hamas, cioè le due componenti, no, della, tra storiche, loro, una sorta di convergenza. E siccome Hamas è favorevole all'Iran, I palestinesi sono stati puniti e in questo momento la radicalizzazione, la nuova intifada servirà a dimostrare al mondo che i palestinesi, come si dice, no? Ammazza sono tutti una razza. Ecco, in poche parole, i palestinesi, cioè dei poveri palestinesi, credimi, nonostante i vari proclami della Lega Araba, nel mondo arabo gliene frega abbastanza, sono sempre stati strumentalizzati. E questo è una cosa su cui dovremmo riflettere noi europei, perché noi europei continuiamo a blaterare, ma poi alla fine facciamo molto poco per risolvere la cosa. E allora una dotta lezione di politica internazionale. Ringraziamo e salutiamo Alberto Castelvecchi, tanto sarà presto qui, un nostro interattore ascoltatore, dice: io vi ascolto solo quando non c'è Mario Giordano. Beh, sbagli, ti facciamo sentire tutti, tutte le voci. Giornale Radio, torniamo, ciao. Ciao. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.